scordate. Non voglio più notizie d'amici da parienti. Non voglio sapere niente se quello che se può. Ma voglio scordo uccere tutte canze. We'll be right back.